importante, perché lui in un mese se l'ha usata due o tre volte anche troppo, capite? Ma se sia qualche cazzata, ma non ho proprio dubbi, molto dubbi. Comunque, appartenendoci cose, io qua la radio la conosco molto bene, la porti qua, la tagliamo al posto del 4:40, la facciamo andare. Si dà uno sguardo al controllo automatico dell'ADC, se quello inserisce bene, funziona bene quello, la radio non c'è niente. Scusate, devo lasciare, è pronto il caricabatteria, là, se ci siete ci sentiamo dopo. Grazie a me, mi ha fatto piacere sentirti, fatti sentire dopo che già ci siamo, non c'è problema, credo di aver rientro penso. Sì, non c'è nulla in televisione, tanto. Ciao Antone, un saluto, fatti sentire che siamo sempre qua, c'è abbastanza movimento. Via, appetito e sentiamo dopo. Doppio. Danni. facoltà, ma stavo dicendo qua. Così c'è traffico in quella facoltà che ho fatto io. E già lo seguivo prima, mi piace molto quello di Ottini, che era una persona proprio alla luce del sole, lo contadino, dove si chiamava, non mi ricordo, però era molto alla mano. In piazza ha vestito la contadina, tutti lo guardavano, ma non era stata da nulla, perché lui era una persona onesta e quando si fa la lavoro, se si doveva fare la spesa, si cavava solo, doveva andare vestito com'era. Lo so chi è. Un P, come si chiama? Lo prendo un P. Allora me la metto Nino, può essere, non mi ricordo. Non mi ricordo, come mi chiede, sì. No, non l'ho più sentito, non è un dirigente spadista, ma... No, ma pazienza. Andrea mi pare. Bravo, Andrea, sì. Era troppo forte, a me mi piaceva molto, perché era una persona semplice, diciamo, una persona che non si dava le cose. Poi diceva, a me non me ne frega niente quello che pensa la gente. Io sto lavorando, quindi poi la volta stava costruendo questo grosso alimentatore e stava spiegando un po' come lo stava facendo, eccetera eccetera, una cosa interessante. Beh, Giovanni, ogni tanto ci parliamo, io sia un po' proprio di rompì, sì, ma non lo so chi è. Convializza, attento, se non scusiana, si pone Sassari, con la buona stagione, mio hermano. Allora, tutto che sento di avere, perché ho sentito con una che usciva con una voce metallica, sembrava dentro un tubo, però era a casa molto presente con la radio, e come andava la furia, era molto presente con me, anche se aveva questa modulazione un po' chiusa, nel senso come se parlasse da un tubo da un bicchiere, la stessa cosa. E chi era Marbellotti? No, non era attivo, da Padova. Padova modulato. Chi sono i nuovi attendi? Male qualche HF che non era Kenwood. Ma guarda che c'era una relazione molto presente, sembrava sotto casa, lui ha detto che era il direttivo, vabbè, sembrava sotto casa, solo che l'unico difetto che era, aveva, era un po' metallica, ascolta che cosa gli hanno detto, che sembrava, e dunque aveva una relazione come se muovesse da dentro un tubo. Qualche microfono, quelli professionali, come si chiamano, quelli a cuffia. Boh, non lo so. Ui, va bene, dov'è? C'è una maggiore. E mi sa che ci tocca, chissà. Pucci oggi. Pucci? Beh, quel comico. Oggi mi pare sia Federiche. No, vediamo mai, tutti in andare a vedere Pucci, invece è qua a Sassari, fanno vedere da qualche parte. Ma a me non me la fatti nuda, non la giocare la nuda più. Lui, prima tutti i concerti, tutte le cose, non me la perdevo una, adesso mi sta passando la voglia a fare tutto, chissà perché. C'è una ragione mia suocera che diceva, come andare degli anni, poi comincia a eliminare quello, eliminare l'altro, poi state tranquillo. Perché non provi più interesse come si provava ragazzi. Addirittura andavo lì, senza parlare, senza qualcosa, lui per carità. ascoltavo le canzoni anche là fuori dello stadio, poi c'era gente che conoscevo, mi facevano entrare. Però per dirti, è così. Infatti, è perché poi ti stanchi e non più nuova, più altas, non più nessuna parte, più scena, sempre in chiusa a casa. Era più bella, vabbè che uscire, devi spendere, ritornare, rifare, per questa occasione. Boh, vabbè, tiriamo avanti. Ci sentiamo dopo già, non toccava niente, eh? Non sto toccando niente qua. Ti pare che posso qualche cosa, ho buttato un casino e parlando via, che non uscia. Vabbè, però se lo teniamo sotto controllo così con Reset, si dovrebbe averle fatto un bel check-up. Vediamo, non abbassare mica lì, lascia tutta manetta così e tiene la funzione. Se poi ti va, io te l'ho detto, sono disponibile. Se ti va, buona sera, vieni qua, non pronti, col microfono, senza portare cavi, senza portare niente, la radio, il microfono e basta. Il cavo ce l'ho io, lo mettiamo qua e lo proviamo. Se non faccio contatto e penso io quello del microprocessore che spinge sul microfono, è una gazzata già, una gazzata, se non è una gazzata, capito? La radio è a posto, mettiamo a posto il download e non c'è problema. Ma deve essere dall'interno la app. Vediamo, se è dall'interno o dall'esterno. Non lo so, volassi pure che sia dal microfono, dalla quella separata, poi se ci sia qualche filo attaccato nel microfono, capito? Non è un problema, perché se fosse dalla radio non avrebbe funzionato neanche il mio microfono, invece il mio microfono funzionava da un app, capito? Non c'è problema. Aspetta un attimo ancora, al telefono. Faccio, lo mando a riparare, allora tu butta la scheda sua vita, quindi quando magnetizzi bisogna dare la fotografia, non c'è problema. Ma ti stavo dicendo, vabbè, quella la puoi sempre riparare, ma è che una radio vecchia, un 440 che c'ha un buon luciere, e lo puoi sempre prendere davanti alla radio, che magari anche su mille vengono tutti più ricambio, cosa. Basta avere un po' di fortuna. Tante volte c'è fortuna. Anzi, bugia mia, stavo dicendo una balla. L'ho fatta a Fabrizio e sono riparata a Fabrizio con pezzi di ricambio usati che ho trovato su internet, eccetera eccetera. L'ho fatta a Fabrizio, sì, capito? E quella lo stesso l'avevo comprata, no? E sono azzurata, l'ho presa e l'ho messa a parte, siccome la parte esterna e tutto il resto è nuovo nuovo. Quindi ha cambiato la scheda VCO, l'ha tutta resettata, ha cambiato altri componenti, sopra la messa a posto, ed è quella che c'ha Fabrizio, la sta usando Fabrizio. Ma ce l'hai ancora a 4,40? Sì, sì, ce l'ha. Non so se l'ha venduto, ma sai che non so se l'ha venduto. Non mi ricordo se l'ha venduto, non so. No, l'ho data a lui, Totò, aggiustata la prendita, se l'ha riparata. Però non so se ce l'ha ancora o se sarà venduta, non lo so. Io l'avevo regalata, lui mi ha comprato una radio di quelle antiche basi, capito? E insomma, già non ci perdiamo mai con Fabrizio, non ci sono problemi. Per dirti, quindi bisogna stare attenti, purtroppo queste radio sono così. E le 4.30 nuovo. Ed è partito l'oscillatore della M e quindi va solo in banda laterale. Funziona, trasmissione, va benissimo, però in ricezione senti colpi a destra e a sinistra perché l'oscillatore l'oscillatore di banda non funziona, quindi ti entrano tutti in qualsiasi canale, capito? Invece in banda laterale no, in banda laterale è una bomba e quindi a già un po' infatti l'ho fatto con la lì. E mi sono ripreso il 4.30 per usarlo solo in banda laterale, capito? Purtroppo sono radio vecchie. Primo, qua. Cosa? Secondo. Via. Paolo. Paolo. Io sto andando a cenare, ci sentiamo dopo, che mi hanno chiamato. Via, va bene, dopo. Ciao. Sì, avanti. Niente radio? Leggera qualche cosa, ma non è la radio, non c'è radio. Gianni? Gianluca? Adesso ci sei, Fabio. Come mi ascolti? Bene, Gianluca. Ok, va bene, questo qua. Ho fatto un attimino un lavoretto. Stavo sostituendo questo qua da una Don Mike. Lo sto provando. Come va? Ottimo, ottimo. Perfetto, allora un attimino che metto un altro e mi dà lo stesso un controllo, ok? Via. Adesso sto uscendo con l'S980. E lei se si sente, ok? Come va? Adesso si sente bene? K. Perfetto, va bene, attacco quello da tavolo. Yeah. Ok, vai. Allora è lui, sono per mobili, per televisione. Cavai, aspetta che chiudo un po' di roba, va. No, così non manco la luce, si fosse male manco. Ecco, tanto non è necessario, perché le luci, andava così. Come c'è la luce? Ho le lucette, aspetto, tutte le luci blu. No, ho capito, quelle della stazione? Via. Ma se è durato, Ricia. Cosa ha durato un'oretta che ho parlato con Claudio, poi l'ho lasciato acceso, sono andato a cenare sempre con l'apparato acceso, ma sono ritornato e non andava più. Sempre acceso, non è fatto nient'altro, sì. Qualche cosa c'era in contatto, magari se c'è contatto da qualche parte. Magari anche qualche salvatura a freddo di qualche sciabidura. Sì, sicuramente è quella. Sicuramente è qualche salvatura, qualche cosa. Però bisogna beccare che cosa è. Quello senz'altro? Oh, meglio. Però non sono legge. Avete da dove c'è già in più. Ah, e sono quello da fare tu a casa. Ah, io dico che sarebbe bene sempre. No, dico come studio magari. No, però adesso guardo, dico la verità, un po' come guardo. Aspetta che mi metta per quella di parlare ascolta. Di parlare ascolta. Sono tutti chiusi, vediamo dove è questo qui. Allora, uno, due, tre, ecco, questo qui appena appena mi così. Dice va bene, almeno mi sento. E vedo come esco. Vedi, questo qua esce una cannonata. Sì, sì, non so cosa ti sentivo con questa radio. Sì, ogni tanto già l'accendo, già va bene, io voglio. Non è da molto, cioè, ci abbiamo fatto le prove, ti ricordi, FM, che voi assicurate che usciva più basso e cose. Però io ho notato che la prima volta sì, ma la seconda volta poi uscivamo normali. Sì, sì, mi ricordo adesso, sì, hai ragione. Abbiamo fatto il discorso della FM. Andava bene, va bene. Andava di lusso. Come no? Ok. Di lusso o di no, che non so. Non avevo controllato le stazionalità. Un secondo. Ah, io ce l'ho sempre... sempre sott'occhio. Ora, ora, ora, ora. Ok, va benissimo. Va bene, va bene. Picchiare oggi a lui, oggi a lui, oggi a lui. Picchi positivi, ciò. Non è abbastanza. Appagati. E lei la mette del mio giovanissimo, no? Questo qui è un altro radio, già la chiamata radio, quell'altro è un'altra radio ancora, la faccio sempre così, ripeto sempre le stesse cose, come la vedo io, come la penso io, le radio sono tutte differenti, tutte diverse, mai più lo stesso, gli abbinamenti, la timbrica della nostra voce è una cosa, quella mia è la mia, quella tua è la tua e così via, no? E dopo il discorso è questo, quando tu non sei abituato a sentire una persona in un modo, ma quando tu trovi un'altra cosa, dice, non devi dire, no, non ti intendo dove, no, non è che non ti intendo dove, ti intendo dove è, ma come è, ma per stare qua come ti ho sempre sentito, capito? Ma dobbiamo fare questa valutazione, secondo me, no? Perfetto. Ognuno ha modo di vederla come la deve vedere, io la vedo così, per esempio. A prescindere da tutte queste cose, uno ha delle preferenze, no? E posso capire che le radio sono diverse, che i microfoni sono diversi, però la preferenza, quindi ti posso dire, ti preferisco con quella radio piuttosto che in un'altra. Ah sì, quello è oggettivo, quello mi sono dimenticato a dire, quello è oggettivo, perché a me può piacere come non può piacere un altro, viceversa. Se quello si chiama oggettivo. Io infatti ho fatto il personale, andava Gianluca, questa comunque è una bomboletta. Io sì, no, guarda, io di quelle prestazioni, di quelle, diciamo così, di quelle dimensioni, o comunque per intenderci, no, di quelle proporzioni, quella radio lì, è una di quelle che mi piace di più. Ce ne sono molte che si assomigliano vicino, come cosa, no? Quelle tipo un 8001 e parte da lì. Però quella ci piace. Beh, anche esteticamente è bella questa. Sì, sì, io l'ho provato. Le altre non le ho avute, quelle che non le ho avute. Bisognerebbe provare come le risponde. ricezione, se ti piace, una trasmissione, per queste cose qua. Però come profondità, quando parliamo di atleti, di compresi di quella stanza, tra poco qualche differenza ci sarà di funzione, magari uno c'ha una positiva, uno non c'ha l'altra, però tra poco sono tutti in negativa. Allora, lì con me, sinceramente, come estetica non piace, proprio non mi piace come estetica. Poi può essere una bellissima radio, come esce, come è, però come estetica a me non piace. Sì, beh, non è che infatti, a me piace un bel Ranger, Ranger molto, a me piace, ma una bellissima recezione. Sì, il Ranger l'ho avuto 5.000, 9, qualche cosa. L'ho avuto, l'ho avuto. Poi Lincoln non l'ho mai avuto perché non mi è mai piaciuto come, non l'ho mai attirato, l'ho visto da amici, provato, ho fatto, però non l'ho mai avuto. Ce ne sono adesso bellini, c'è lo Scape che assomiglia molto alle Xenophon, l'hai mai visto? Sì, ma c'è proprio per me. Non so se sia della Magno, è un, proprio una fotocopia delle Xenophon. Ho capito, internet, non mi ricordo però il, non mi ricordo che per la produzione, tu lo fornisci a quello lì, non me lo ricordo. Ciao, buonasera, ma ci vediamo molto bene. Avevamo capito, ciao Massimiliano, sentite ben entrato. Già, non so se c'hai televisione, magari la bambina lì che stanno parlando in quella familiare. Sento oltre a modulatore tu altri rumori. Ecco, prova un attimino a battere la TV. C'è anche Gianni. E ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Questo qui, secondo me, è un microfono, è casinista, si sente tutto. Positivo, allora. Iniziamo. Così. Lascio la guarda. Però appena, questo è il microfono suo, a palmare, dai. Perfetto. Va benissimo. Però gli ho fatto un lavoretto a questa radio, perché l'ha chiusa. Chiusa. Figurati. E dove l'ha chiusa? L'ha chiusa nel trimmer dalla M. Era proprio, c'è presente quando chiudono i trimmer e li mettono al minimo, era così. Allora l'hanno portata appena più di metà. Infatti io mi accorgo anche dei picchi adesso che cioè, è una cosa allucinante. E mi faccia fare il sorriso? Scritto, tu apri il coperchio dove c'è la colonnina, c'è scritto sotto, cioè proprio dove c'è il trimmer c'è scritto AM, è modulazione, che ce n'è, guarda, uno è fatto in lamierino, l'altro è tutto nero, quello tutto nero lo porti al massimo, dove c'è scritto AM lo porti tutto al massimo lo stesso, vabbè io l'ho portato al massimo. C'è scritto AM? Sì, sì, c'è scritto AM, tu metti AM, modulazione, c'è scritto AM e modulazione. Metti modulazione al massimo e vabbè io l'ho portato appena più di metà quello della M. Che radio è questa, ciao? Ma, Massimiliano. Questa è la Xenophon. Ah. Rendi conto che sto usando il suo microfono per mare, diciamo quello normale, diciamo, là. Ma come ce l'ha adesso, no? Quello è Massimiliano, quello di quella persona là. Di quella persona là. Piacere. Ma no, negativo. Io sono proprio un io. No, Giuseppe non... Giuseppe ce l'ha. Da portare su. Questo è il mio. Non c'è più il Galaxy. Grazie Massimiliano. Lo sapevo già, avete fatto lo scambio con Giampaolo. Io abbiamo fatto una cosettina così là. diciamo che piace tanto. Piace tanto e vabbè, là, c'è da fare qualche lavoretto. Tutto lì. Vabbè, seguo tutto giù. Ciao, Giorgio, buonasera. Perché ti sono mandi un mangio? Perché si è bloccato di nuovo. Io lo lascio acceso, non l'ho nemmeno toccato, nulla, cosa. Come sono rientrato, sono andato a chiamare Gianluca perché mi ha mandato il messaggio, sono sul 12. Sono andato a chiamarlo e non mi rispondeva. Alla fine ha detto guarda che non si sente di radio, si sente già. Allora c'è bisogno di circolare di nuovo. Vabbè, io tanto sono disponibile, se me lo porti avanti e vediamo lo sguardo. Vediamo se quello che dico io è una forzata, se no non so cosa dirti. Scusate, Gianluca, ricordati di farmi uno squillo che dovevo memorizzare il numero, che l'altra volta me l'hai mandato ma non me l'ho memorizzato, hai capito? Mi fa uno squillo solo e così me lo memorizzo. Va bene, non c'è problema. Ok. Ma non metto lingua a Marsiglia, ti preferisco col Galaxy, questo è il mio parere. Vabbè, il Galaxy c'è un microfono amplificato e questo non ce l'ha. Può darsi pure che magari abbinando il microfono questa radio esca bene. Non so, non so cosa dirti. Se sei contento tu, sono contento io. I miei pareri lo sapete che sono sempre molto, molto schietti. Io quando preferisco la modulazione, dico che preferisco quella. Gianni, ma tu cosa hai abbinato nell'S980? Il microfono normale, ciò. Mentre Gianni non c'ha l'effetto cattedrale, c'ha un reverbero secco. Questo intende della bella radio, dai, c'è bene anche Massimiliano. Sono intende della bella radio, poi io li ho avuti tutti e due, perché mi piacevano tutti e due, dico la verità, sia l'una che l'altra. Vabbè, adesso l'ho mai veduta e... Come anche io l'ho avuta, ma non ci ho trovato niente di cosa. Una radio che va bene, esteticamente molto bello, per me è sempre un baracchino, io con tutti i baracchini che ho avuto, meglio brutti, non riesco a attaccarmi da questo tipo di modulazione, da questo tipo di radio. Senza disprezzare quello degli altri, ma a me mi vanno bene queste. Non ho sentito ancora una cosa. Gianpaolo scendo col gas a vedere come esce. Poi Gianpaolo ce l'aveva già il gas. Sì, ci aveva la 589, buon numero, 555. Tanto è solo l'occhio che ti fa e basta. sono delle belle stazioni, qua ci sono tante radio, però poi alla fin fine quante ne usi? Però vabbè, questo è sempre acceso, 4.30, io ci l'ho separato, però quanto per me sono 27, 4.40 sono 27, 8.50 è 40 metri, 7.80 è in UHF, 7.004 è in UHF, l'altro in UHF è in banda laterale, e la linea del 4.30 è in 20 metri, quindi sono tutti in uso con antenne separate, perciò non già li uso contemporaneamente, non è che abbasso solo il volume qui e se devo trasmettere in HF, trasmettere in HF, in UHF e così via. Brutto è quando hai un'antenna sola e quindi devi per forza usare un'unica radio, capito? Infatti, vabbè. Ma si può fare anche tutto quasi con due radio, con le cose lì, le cose lì. Cioè non c'è bisogno di mettere una in vura, tre in uno, magari contro una radio che faccia voi. Non mi ci trovo. Io ho avuto 10.000 che ho venduto, non si vedeva neanche bene, quindi non... Può fare una cosa per l'altra, capito? Invece quando si vede tutte separate, puoi ascoltare diverse frequenze, c'è tutto sotto controllo. Ma se fai uno puoi fare U, se fai V e U puoi fare HF, invece qua è tutto separato. Ma tutti i radioattori sono così, è difficile un radioattore abbia un'unica radio quadribanda che faccia tutto, perché fai una cosa o fai l'altra, capito? Se fai trasmettere in HF non puoi trasmettere in UHF, e come ti vai? Capito? Quindi per quello che si fa sempre queste cose. Davanti Gianluca. Sono qua, stavo girando un pochettino su internet per vedere un pochettino queste radioline che ci sono, mi fa, queste radio antiche. No, basta. La divinità che ti ho qui, Gianlu, poi, nove volte che stava preso le radio antiche. No, ma non occupa l'acqua, guardate, capito, come usare, tanto, mi sono su internet, capito. Guarda, se qua quelli che ci sono qua, le già ne ho viste, ne ho portate nell'armadio. C'è una base della Standard, bellissima, possesso di quelle antiche che funziona, UHF, base, che funziona. Ho girato le due lo stesso che sono nell'armadio, ma non me ne fotte niente. Non c'ho più posto e ho riordinato tutto e tutto quello che c'è qua che funziona. A far vetrina non me la fotti più nulla. Avanti Massimiliano. Tappa di tutto. Ehi, tappa di tutto tu. Perché il tocchet, non ti scegli notte, non ti lascio nove. E la pianta che vado, che... ingressi, uno da una parte, uno a destra e uno a sinistra. se devo cercare per farmi vedere acceso. Ci stiamo fermando, mi sei fatto 5 minuti. Guarda, vieni, ricontroviamo con la radio e faccio vedere tutto acceso, anche le linee valvolate. Non ho dato mai acceso, ho fumato per fino ad ora. Già va bene. Quello deve essere un bel bel acceso. Positivo, già, sa, quello io sono così, hai capito? Cioè, sono fatto così, non è che... A me piace scherzare e ridere, no, no, sempre fatto Muzzucci, come te Claudio, sempre a far rendere in radio, cazzo, e a me piace scherzare, la radio è fatta per quello, vero? Capo di Puglia. Aspetta, nel frattempo ho attaccato il Zodiac che conta le più tre. Giusto qua fatti comprendere che in radio invece funziona le mese di chissà, Gabbo di Bugnetta. Allora, tu sei proprio la testa di Quincy, perché lo Zodiac con l'MB più, ma col tasse più tre è più bello del DAC, di modulazione. Già lo so, ma il DAC no, non è, come figura è bella, ma come radio non mi piace a me come esce. Ho provato a abbinare tanti microfoni, ma no, non va bene. Non lo so perché, forse perché la mia modulazione spinge troppo, non lo so. Però questo è più performance. Va bene, e la sigla. Condivido quello che hai detto. A me la modulazione del DAC, no, davvero adesso sono, non è che piace tanto, però a qualcuno può piacere, a qualcuno no. Questa non la metto neanche a paragone, la verità, questa è molto superiore. Avanti, dottor Ru. Il DAC va bene con Siderick. Ma alla fine dei conti, Massimiliano, diciamo che li appoggi, dai. Se si fila, sì. Lo vedi, Claudio? Vedi? Basta lo stimolo che si lancia. E questo non è il Turner Super Sidek che ho già. Questo è il Turner Super Sidek, ma non va bene al DAC. No, non mi piace la modulazione. No, ma si vede, ti ho fatto sentire, io ti stavo dicendo dell'Echo, l'Intec M500 ho l'Echo, no? Se tu lo vuoi, non baracchino. Vai, chi se reverbera, boh. Certo, la timbrica è diversa da qualsiasi radio come quelle che usate voi. Però già va bene. KK, va bene. Gianluca, vieni avanti, cambio. Aspetta, Gianluca, scusami. Massimiliano, te sai, in effetti noi siamo trattenti barattoli, me. No, allora, voglio precisare una cosa, ma che questo sia proprio detto a tutti, Tu puoi abbinare qualsiasi tipo di eco, qualsiasi tipo di microfono con l'eco, farli in schifo tutti quanti. Per andare bene un baracchino ci deve essere la scheda conti dentro, boh, passa. Ah, su quello non ci piove, sono d'accordissimo con te. Tu mi piace di abbinare microfoni con l'eco, reverbero, tutto a scheda, ma scheda... la camera eco che si muove esternamente, ma non c'è Cristo, baracchini con l'eco sono quelli con la scheda accolta. E te l'appoggio. Abbiamo compreso la scheda accolta, sì, e l'orecchio si deve fermo, vabbè, Gianluca, avanti. Quello è secondo i suoi gusti. Noi giusto per dire la mia, la mia preferenza è la modulazione, a parte il discorso dell'erba, quelle si possono mettere su dici tanto tanto per provare, e ce l'ho anch'io, tanto tanto, però la modulazione per sentire una buona modulazione per me deve essere secca, comunque deve essere normale, amplificata, però senza avere tutte queste cose che alterano la modulazione, se no io non riuscirei neanche a dire, per dire il mio parere, il mio confronto. E poi a Buda di Riburu dice due, quando ci dice da due, non c'era su internet, così guardando, perché questo mi dice 180 euro, ma si buoni con i 600 euro, da un 48, con tutto ciò che vuoi, per carità. Allora, Gianluca, quella lì è un altro discorso a parte, uno che è appassionato preferisce spendere 600 euro su un 48 che non comprarsi una radio del genere, e quelle sono passioni. Infatti quelle sono cose oggettive, infatti per me adesso magari non mi spenderei 600 euro per comprare qualcosa di più, cioè userei di più, che per quello non lo sfrutto, capito, non sfrutterei un camionista, magari sì, vedi, un camionista o appunto uno che magari le faccia proprio quel tipo di radio. E ma quella radio si può usare anche senza l'eco volendo, diciamo. Sì, volendo sì, vabbè, sono delle libere scelte, quelle lì sono passioni, chiamale come vuoi. Vabbè, Gianluca, tu rimane una curiosità, ma stai parlando addosso al mic? No, negativo Sandro, sono lontano un braccio e parlando con la voce, normale, alta di modulazione. Forse magari perché essendo vicini magari è per quello, dai. Va bene, dai, ognuno diciamo fa le sue proprie scelte. Ma non me l'hai mai detto, però sa, se faceva così, non prendo un braccio solo, aspetta un attimino, allora guarda, poi a fare così appena lo abbassiamo a metà, allora cosa ne dici così? No, Gesù, ti capisco, va bene, soltanto magari, evidentemente magari siamo in vicinanza e quindi rimbomba un po' la modulazione. Renditi conto che non sto ricevendo col cavallo di battaglia, quindi magari ci dia anche quello, dai, lasciala com'era. Ok, no, era a metà, adesso lo riporto allora al massimo, ma chi viene, vabbè, l'ho sempre tutto al massimo. Vedi Gianni, questo mic qui faceva quel difetto che stava facendo inizialmente su quell'altro che stai dicendo tu, però l'ho messo il prodotto quello per contatti elettrici, e ti ricordi che l'ha detto Morbazia, non uscia? Ma Gianni deve avere qualche altro problema, adesso vediamo un pochino come la situazione, Quello che hai Non penso proprio. sentito a Giampaolo con la 48 che gli ho dato io, che non so se ce l'ha ancora o se l'ha dato, per l'età l'ho sentito una volta solo, hai capito? Gianlu, riprendi un secondo che c'è mia figlia che ce l'avevo buttata nel letto, aspetta. La cappa, va. No, che sapevo io, credo ce l'ha ancora, ce l'ha molto, perché magari la moto adesso posso vedere, non la sta utilizzando. Quando già ce l'hai molto. Boh, anch'io l'ho sentito una volta solo, poi no, non l'ho sentito più, vabbè. Come ti sta arrivando gli apparatori, se c'è lui? Sempre bene, meglio, va benissimo. Ma il segnale ce l'è? Fatto andare a me. Dove ti svegli? Va bene, va bene. Questo è sempre il 50-24 base col tunnel Super Sidrit. Avanti doppio root. Sì, va bene, va bene, va bene. Ce ne sono tante radio che fanno bene, solo la mia davanti. Stavo dicendo, segnale tra 9.10 e Radio 5, hai capito? Qui sul K. Ehi. Già lo mettiamo a posto, Gianni, già lo mettiamo a posto. Vedrai, guarda, lo porti qua, ti faccio vedere che è una fesseria io. Una fesseria, avanti Sandro. E lei? Adesso si è spostato un attimino, dai. Non ce l'abbiamo fatto. Il 10 meno 5 sono. E tutto procede bene. E me ne ascolti tu, Claudio, lì, con questo qua? Sempre bene? Sì, quasi 9.10 lo stesso, sì. E la radio come è interessante? Buona, 5, buona. Venga. Sì, ma va bene, dai, ma ha fatto bene la signora, la sua radio, la curiosità, la prima strada. È gratuita, Gianni. Credevo che mi giocassi sul caldo, però internamente era buona, quindi due ritocchini e va bene, capito? A volte sono buone internamente e sono brutte esternamente, a volte sono belle esternamente e sono brutte internamente. Non è un problema, già si mette tutto a posto. Sandro? Ehi, ok, dai. Vabbè, ogni tanto bisogna dargli una revisionata a queste radio, dai. Purtroppo quando cominciano a invecchiare bisogna portarle al medico. Io stavo dicendo a Gianni stasera, cosa tutto è molto peso, soprattutto io e tu con i 440 non avremo. Per carità, dice due radio nuove, purtroppo sono radio vecchie ed è un casino, capito? Però quella di Gianni è una cazzata, sono sicuro che è una cazzata. Sì, ok, dai, e magari è qualche. Cosa è successo? Che c'è qualcosa che non mi fugge, Oh, cambio. Sto uscendo? Sì, sì, stai uscendo, stai uscendo. Un po' un correccio e poi me ne vado a mano, dai che sono stanco. prenditela tu, Massimiliano, e poi fai gli altri. Ma riprendo subito, sono con una figlia qua, c'è come, va. Saluto l'amico di Falco Nero da Zuzu. Buonasera Falcone, ma io sono mezzo abbioccato, dico la verità, dai. Resta il QRX perché tanto poi mi addormento, va. Riprendi tu Claudio e poi sa far girare. D'accordo, ciao Gianni, allora, io quello che devo dire te l'ho detto, vedi tu cosa vuoi fare. Ciao, buonanotte, alle prossime, per domani. Avanti Gianluca. Gianluca. Sandro. Ok, ok. Eccolo qua, ogni tanto fa le pizze qua, va bene dai, stavo cercando di far calmare un po' la bestia, va bene, ciao Gianni, dai, buon QRT e ce la risentiamo tutte le prossime. Massimiliano a quanto pare si è assentato, ok dai, va bene. Ancora Giuseppe, ancora ci sei? No, sono qua. Tornato, sa, hai capito? Va bene, dai, vediamo se ancora Antonio Giuseppe c'è. Ci sei, Antonio Giuseppe? Capo, ho fatto un po' di scappato che sono qui, che sono tutto, ma sono tagliamento, che ci sono. L'ultimo si può essere messo pure per fare cose, ma non sono messo, deve fare a fare, deve andare a fare un corso a una stanza stasera, ma non è già rifiutato. Ma visto che non è stato che vi sarà che di un corso, quello di Gianluca, quello delle piazze, questo qua. Lo so, e capiva me, la cosa più scorsa, la sua lettura, dopo dove mi aveva vista, la causa, invece la seconda volta che ci vedo ancora la presenziale, e la mia giunta ancora la presenziale, questo qua, a tuo fango, capa. Capa, e ancora qualcuno c'è rimasto, vai. Ancora in questa 27, ancora qualche superstite, chiamiamoci così, ci siamo rimasti, pochi diciamo, ma comunque, tiriamo avanti, cosa vuoi fare? Almeno è l'unico spasso, diciamo, che per ammazzare un po' quella mezz'oretta, un'oretta, che ci è rimasta, vai, va bene. Vediamo un po' Gianluca se è rientrato, Gianluca si è assentato, si è abbandonato. Massimiliano, riprendita. Sì, positivo, vai, positivo. Volevo dire anche il Giuseppe che l'ascolta molto bene qua, Certo, Massimiliano Bulldozer. È andato così. Allora, abbastanza bene, faccio le 5 delle 5 con volete, perché magari lettura per così. Ma per caso in questo caso Claudio Santiero. Pronti? Non so se è andato via, ma in casa ci sei. Allora mi pare che ci avete vinto troppo voi. Sono come tu a fare i denti. Bravo, sei tu, sì, comprende. Ehi, perché non mi senti? No, forse hai visto la macchina chiuso io, ma io sono fermo all'impianto. Non sto più uscendo in questi giorni, sono fermo all'impianto. Vai, ho capusato giù in tutto. Tanto non sto uscendo all'impianto. Sto viaggiando con la mia macchina e stanno uscendo gli altri. Io sono tutto il mese sarò fermo a Sorso, ho capito. K di Roggero, va bene a tu, non c'è problema, non c'è problema, se esco presto magari mi avvicino a casa e andiamo a berci caffè, va bene, K di Roggero, avanti a chi tocca. Non può passare in bocca? È un già basso, il microfono, a chi troppo basso? Sempre com'era il mio Massimiliano, forse sto gridando troppo, ce l'ho, due ce l'ho, te, te lo metto uno, così a uno bene va. Così è più comprensibile. Vabbè, ti conto che c'è il supplemento. Ma butta mai lì su, deve passare. No, perché con l'attacco aumenta anche la radio. E beh, secondo te cosa fate? È forte niente la radio, no? È un bel forte, è cazzo per 45. No, perché c'è il produttore generale, non te vattero. Pensavo di non arrivarci. Hai fatto bene a dirmelo, adesso che lo so, perché di solito lo uso a 2, 2, 2 e mezzo, dai 3. Adesso ce l'avevo a 2 e mezzo, oggi bocca 1. Già va bene. Ehi, che a tomare a chi non vince Vittorio. Un Zodiac 50-24, vado lì. B50-24, te lo metti? Franco, Franco lo so, su. Franco Nero. Dove è il tuo Franco Nero? Ma che mi sono facendo dai gusti? Ciao Falconero, scusami, ho cambiato per un altro corrispondente di sempre Terra Oscar. Non so se mi ascolti, Falco, ci sei? Papà, mi ascolti sempre, caro. Papà, forte chiaro, tranquillo. Va benissimo, ti ascolto bene, va benissimo. Avanti Gianni, se ci sei. Apri il culo e vedi a lui. Ascolta, forse ho sbagliato io, ma t'ha giurito Franco Nero. Ma perché mi stavi forse ironizzando Franco, quindi Franco Nero con un uomo di razzone? Ma che Franco vede su su? Sì. Vabbè, dai, dai. No, vabbè, ma Gianni c'è o non c'è? No, no, ho tamponato che il Guerrix è torna. Va bene, dai, ok, dai. Vabbè, colpa mia, dai, non so cosa c'è. Avanti, avanti, là. Uia, uia. Non ci andare, no, non ci andare. Avanti, Antonio Giuseppe. Va bene, no, no, ma la sua ragione è che è nato, va bene. Oh, Ezra, comunque, c'è il capo di poi c'è anche la cabina 23, io della Fayette, quello piccolino, la macchina, esce come questo. La storia degli anni 70 è un Zodiac che tipo tocca i 5024, è questo lì. Solo che anziché essere piccolo è base a 220, capito? Va a 23 canali, non va FM, non va nuda, solo M, capito? Tu. E poi c'è una Fayette KB23 che esce bene lo stesso, molto molto bene come questa, però questa è più visiva perché c'è lo smitter grande, lo vengo di più, chi doveva lo smitter mi lo vedo, lo vengo una cicca coprigia, però è detto bene, i baracchini che facevano prima, allora si risogna lì. Ma prima era una modulazione veramente una scarsa presa, ma vediamo che sono avanti da lui. Sì, anch'io per quel poco di esperienza che ho me ne sono accorto. Soprattutto un'altra cosa, le regole erano fatte con criteri anche per di vecchia generazione, però erano fatte ben più banditi i microfoni. Tanti microfoni usano di linea, va, 10 novelli, chissà, con punto di via, in modo anche accoppiare anche la radio, Invece vedi, se tu microfoni pensavo, il carne, lo filo, quello lì, vanno tutti bene, tuttora, sono microfoni che hanno, gli anni che hanno, sono, si raffuggono di si nuova, tutti, no, veramente, va, sono fenomenali. Con l'appoggio, guarda, io ce l'ho con Rossi americano, 40 canali, ma questa era una bomba, Gianluca, ma lo so, vuol dire una bomba, era una radio che era allucinante. Ma guarda, mi sembra di aver sentito una tarlattina da te sotto, qua tu la senti? Ma da Gianluca? Mi sembra c'è una tarlata, adesso la sta portando dietro. Ma tu io? Sì. Sento qualche cosettina, potrebbe stare un sotto schermo, che non sia questa cosa qua. Controllami bene, Massimiliano. Adesso no, quello schermo era. Ti portate una cosa così dietro. Comunque, fatto è, così è, gli apparecchi di prima, anche perché, diciamo che gli apparecchi di prima erano tutti quartati, quindi la cosa cambiava. Quindi le cose che si facevano un tempo non ci sono più. sofisticato, hanno fatto tutti questi gangati, queste cose, componentistica che poi non trovi più, questi invece sono quartati e vanno bene. Avanti Massimiliano. Guarda, quella lì, attenzione che quella lì è una bella radio, eh. Ecco, c'è un 23 canali che non c'ha tutto quello che deve avere, ma esce una bomba dalla radio lì, eh. Ti ripeto, qua, senza, giustamente, senza offese, ma andate di quasi 2-1, ma molto, molto, molto più bella come modulazione questa. Come l'hanno detto, Massimiliano, me l'hanno detto. Infatti mi devo abituare un pochino anche a usarla, perché mi è anche comoda, perché giro la sedia e basta. Però appunto devo, c'è un po' più avanti, quindi se c'è magari a quest'ora puoi anche trasmettere tranquillamente, ma con 4 watt, quando c'è propagazione, quando c'è un po' di QRM non ti tende nessuno, anche se ho una buona posizione allora uso sempre l'altra. Però devo abituarmi a usare anche questa, perché mi sto dicendo che mi ascolto da Dio, meglio del 440. Ma la modulazione tua splendida, anche quella di Gianluca Falconero da Sorso, che arriva con un segnale di 9, bello, perfetto, pulito, senza nessun problema, veramente. Cioè questa altoparlante davanti che è uno spettacolo. Grande ricezione. Avanti Gianluca. Ok, guarda, io adesso sto adoperando due cose tue che sono state malate. Un mic è una radio, vedi un po', di antica generazione, non so come mi ascolti, come mi ascolta anche Franco Falconero lì a Sorso. Allora, con il microfono è il danno è più duro sicuramente, perché la timbrica degli acuti è quella. La radio non la so a cosa è abbinata. La radio è quella dello Sears. Ah, Sears c'hai anche, benissimo. Quella è una radio americana, lo stesso 23 canali che va da Giampaolo, col tanno più 2, sì, col tanno più 2 da tavolo. Ma a me piace come modulazione. Sì, sì, l'ho abbinato qua, ho detto, visto che questa radio è così, l'ho messa qua, ad ogni tanto a provarla, dai. Non so se mi ascolta bene anche Falco su, da Sorso. Nel letto, e poi me ne vado a nonna. Ma mi ha fatto piacere questo piccolo piacere. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, ciao Claudio, Gianluca, Franco Nero, da più spesso. E tutti i vari di Pucco e Viso. Ci sentiamo, buonanotte, vi saluto, buon proseguo di questo. Ciao, ci vediamo, a frappè. Già ci sentiamo, avanti, buonanotte alle prossime. Avanti Gianluca. Sì, ciao Massimiliano, ok, dai, ci sentiamo casomai domani, dai. Buonanotte, buon tutto. Avanti Falco. Salta. Salutiamo amico mio figlio, quella buonanotte. Tutto qua. Per il ritorno lo sono stato in questo mi sono notificato questo vivo, posso aiutare? No, non c'è nessuno. Salta. Salta, lo prendiamo, ma ancora per ora, se poi lo sono stato in questo caso. Non è venuto a questo è il cambio. Sì, ma no, non si discute su queste cose. Assolutamente, quelle radio lì sono, vanno molto, molto bene. Tra l'altro io ho questo 23 canale che sto parlando adesso, quindi un altro, l'HB23, ma statisticamente ne ho provato tante e ho visto che sono superiori a tutti, sia questo Zodiac che Lafayette. Capito? Ne ho avuto tantissimi. Qualsiasi, una radio americana, tipo il DAC, così, 23 canali, DAC, vabbè, 40 più 40, un po' più alto di generazione, ma anche quel SEAS c'ha una bella ricezione, una bella trasmissione. No, pensavo se l'avesse tenuto Giampaolo, invece l'ha data a te. Comunque già vi fate degli scambi buoni, quindi non c'è un problema. Non gli avevo dato perché ce l'avevo, ma lui voleva sempre un baracchino vecchio, antico, che uscisse bene. Gli avevo dato, capito? Io ce l'avevo doppio, gli avevo dato. Sono dei bei baracchini anche quelli. Cavolo, no, va benissimo. L'ho provato anche in banda, l'ho sentito anche in banda, è fenomenale. In banda è perfetta. Non so se hai avuto modo di parlare, ma io l'ho provato in banda laterale, è perfettissimo, sia in trasmissione che in ricezione. Non c'ha l'FM, c'ha la M, la banda laterale so. Sì, M. Questa è una pecca che hanno queste radio americane. O ce l'hanno e non si sente tanto bene, oppure manca. Anche in quell'altro striker che ho nell'altra camera, lo stesso è con le bande laterali e senza FM. Però c'è il canale sopra, anche uno scatto sopra che fa fare. Fenomenale, manda preciso, sintonizza benissimo sia in ricezione che in trasmissione. Però gli americani per far cavolo l'FM non la curano, dai, diciamo, non la mettono, forse non la usano. Ma se tu ti immagini nel DAC, che è uno dei più grandi baracchini al mondo, non ci sono baracchini grandi come il DAC, che è una bestia, se un amplificatore di chi si fa volare, mandi, no? C'ha 40 canali normali più 40 sopra. 80 canali praticamente, 40 più 40, i watt regolabili da 0 sino a 25 watt, completissimo di tutto, qualsiasi luce ti si accende, c'è uno strumento come l'HF, no? FAT, DAW, praticamente veloce, lento, la NL, l'NB, la trasmissione che ti segna sugli strumenti, c'ha quattro strumenti, il standby della valvola, ma di tutto e di più, capito? Addirittura c'è la tensione analogica della valvola per vedere se la tensione è buona, lo strumento che ti segna i watt, il rosmetro, wattimetro, è tutto che ti segna a display anche. Se tu stai usando il rosmetro appare la scritta SWR illuminata, capito? E così via, ma di tutto non va l'FM, c'è le bande laterali e la M. Adesso c'era lo spazio, no? Per fare anche, per mettere una scheda FM, non è in bocca, chi in America l'FM non esiste, compreso è. Avanti, fa com'è. Sì, sì. Chi era? Io me ne ricordo che un socio era un vigile urbano nella mia casa in Barba. Sì, ho capito, e vabbè. Già era lì, dove c'era prima la guardia di finanza, ho capito. Sì, attaccato, c'era un negozio di elettronica, sì. Ed era Cau, con la barba. Adriano Cau. No, lì come una mezza qui, la mia padre è stata a te, mi tratta, mi fa di due, mi fa l'altro, e avevo stato a loro. Che c'ha il suo palino, secondo interrogativo, vanno via sotto, fanno una pasta che sono lavorando, abbiamo detto che sta. Adesso, perché mi dovrebbe fare una cosa, che io non sto sbagliando, che non mi hanno detto, non mi hanno fermato l'altro. La l'altra volta per questo che adesso prende non ce l'ha la mia verità. Ma poi che c'è prima che sappi, tantissimi anni fa, quella famosa Area 51, quando gli americani hanno scoperto quella frequenza lì. Ho sempre dimenticato, bravo. No, e si conferma, infatti. Proprio questo, è l'Area americana. L'Area americana è un'altra di quella molto, l'Area 51, nella deserto del Nepal, e da lì ha scoperto la frequenza. Mi ricordo sì. Mi ricordo sì, c'era qualcosa anche su una radio rivista, ma poco, mi sembra era il van fatto l'anniversario, non so di cosa, l'ho letto su qualche radio rivista, e vabbè. Comunque, gli americani sono forti. La radio americana di vecchia generazione si mettono in tasca le radio attuali di nuova generazione. Questo non si discute, ma va bene, Falcone, sarà fatto. Allora dai, io comunque tutto il mese sono fermo a Sorso perché stiamo facendo dei lavori lì all'impianto e quindi io non sto andando da nessuna parte, sono fermo lì, quindi quando vedo la furgonetta rossa non so cui io. Un abbraccio grande a te signora e ci sentiamo, ci vediamo di persona. K. Ciao Falcone, è stato un piacere, dai. Buonanotte, buon tutto per domani, ci sentiamo alle prossime, ciao, buonanotte. Ciao Don Giuseppe, alle prossime, stammi bene, fate sentire, siamo sempre noi. Lo sai Gianluca, quant'anni mi conosce Falcone? Allora avevo 14 anni, no 16 anni e andavo in moto a Porto Torres, a casa sua a Sorso. E poi praticamente non ci siamo mai persi di vista, è un po' di tempo che poi ero fuori, eccetera. Tu immaginati quanti anni non conosco il baracchino io, il baracchino di persona. Beh, sì, se vuoi vedere lo visti in sedali. È logico. Sì, no, io guarda, mi sto sposando anche con le cuffie, veramente i ferragli sono fenomenali. No, io non la uso quasi mai questa, a volte la tengo accesa che sono in ascolto, poi quando ho il cambio, però adesso che non c'è QRM va benissimo, va molto bene. E beh, tu immaginati dove abita adesso, io l'ho vista costruire la casa, l'ho vista costruire, quindi K. Vabbè, bei tempi erano anche bei tempi. Avevamo in tanti, però c'era più armonia, più discorsi, più cose. Adesso vabbè, con la crisi che c'è, con tutti i problemi che abbiamo, ognuno c'è sui. Siamo tutti con la paranoia, cazzo, ci buttiamo la radio tanto per sfogarci, per dire due cose che però poi alla fine diventano anche noiose perché ci diciamo sempre le stesse cose, il lavoro, quello, quell'altro, mamma mia, ragazzi. Vabbè, però se non altro almeno scarichiamo un pochettino, dai, anche se i discorsi non sono dei migliori, però è giusto, dai, no? non bisogna buttarsi a terra più di tanto. È inutile logorarsi il fegato per delle cose che non dovrebbero essere come sono e non dovrebbero andare come stanno andando. Ma bisogna avere anche la fiducia che magari può migliorare, possono, devono migliorare. Se vogliono loro già si già la conta nei rigosi, barra di rivecchiani. Via via. Vanno solo che non avevano un governo, ma avevamo lì i tre che sono correnti, uno più dell'altro, sono correnti ma non stanno pensando ai problemi che abbiamo noi, no, ai problemi che ci sono. La che deve fare in Kivi e Bubascia, ma voi chi si è visto si è visto. Ma infatti ho sganciato già lui, mi senti lo stesso? Sì, al 100%. Adesso sto continuando con questa. Adesso come ho sentito che sento te che stavi parlando con quella lì, aggiungo mia, adesso visto che è collegato, dovevo solamente commutare, perché ogni radio qua c'è il suo microfonino che ho diciamo così abbinato. E via. Ho fatto un po' questa qua. Via, no, io ho sganciato l'amplificatore, adesso sono comune, ma no, penso che siano 4-5 watt questi, non lo so, comunque, già ci sentiamo lo stesso, no, non c'è problema, devo cambiare la batteria per questo microfono, domani se mi ricordo, c'è, c'è 2 anni sta batteria, comunque funziona sempre, no, questo è UI, non è canonata. Questa è una cannonata, sto microfono, sto super sideri, veramente, veramente molto bello. Sì, sì, e io cazzo c'ho quello lì purtroppo che in quelle condizioni che ti ho detto. Chissà cosa diavolo hanno fatto. Chissà se la trovo una capsula che si addice. Non lo so già, bisogna cercare. Vedere un po' qualsiasi capsula, qualsiasi cosa, anche di qualche microfono, di CVC, capito? Vedere un pochino se va bene, ok. Va bene, dai, che domani mi devo alzare 5:30 io, alle 6:15 ci devo uscire. Ci sentiamo Gianlu, stammi bene, grazie alle 2 chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto. Sparviera SK, passo in QRT, altrimenti domani mi canta lo cucù, sono già a Londra. Ciao a tutti, buonanotte, a domani Gianlu. Ciao, buonanotte anche a te e buon tutto per domani, ci sentiamo al rientro. E a K di Rogero, ciao. Ciao, buonanotte.